Wolf Trips, i viaggi del lupo. Iniziamo una nuova puntata di Wolf Trips, la numero 6. Io sono Domenico Biancardi, stasera siamo in formazione ridotta, perché devo salutare la Cri che rimane a casa, non so se verrà dopo. Abbiamo Katia dall'altra parte che mi sta facendo un'infinità di foto e ci saluta. Comunque se parli in realtà si sente anche nel microfono, Ciao. Se vuoi salutare, ecco, vedi, saluta. E poi dopo, non so, verrà qualcuno? Boh, non lo so, Tony lo aspettiamo, ma tanto lo sappiamo che lui è sempre in ritardo, quindi non ci stupisce nulla. E dovremmo avere anche un ospite molto speciale che tra l'altro, devo dire la verità, abbiamo sbagliato a scriverlo su Facebook e, guarda, non sono riuscito neanche a recuperare. Vabbè, io direi che iniziamo subito con un po' di musica, perché mi sta crollando il microfono, devo sistemarlo un attimino. E infatti se qualcuno guarda la diretta Facebook ha visto un microfono cadere, però vabbè, nulla di grave, adesso lo sistemo. E partiamo subito con il primo brano, che è dell'etichetta Sub Bass, che avevamo ascoltato sempre verso la fine delle puntate. Stasera ho deciso di iniziare un po' con questo brano, che è un brano del genere dancehall del 2015, ed è un gruppo di New York che hanno fatto veramente tantissima musica e moltissimi remix. Loro si chiamano Subzuara e il brano si chiama Smoke Rhythm. Non so che cosa si intenda bene col titolo, adesso vado un po' a cercare, anche perché mi manca la mia spalla esperta di inglese stasera. Tu Katia, sei secondo te? Non so cosa vuol dire rhythm. Vabbè, e infatti mi manca quello. Vabbè, andiamo ad ascoltarcelo. Intanto recuperiamo in extremis Tony. Abbiamo iniziato con questo brano molto tranquillo, Tony, intanto che ti metti le cuffie e ti sistemi. Tony tranquillo. E, il brano era di Subzuara, Smoke Rhythm, che sinceramente ancora non so cosa vuol dire. Poi dopo sei arrivato tu e non ho più cercato che diamine volesse dire. Vabbè, dai. Buonasera. Me ne faccio una ragione. Buonasera Tony, buonasera. Quindi sei arrivato. Sì. E non ti sei portato dietro nessuno stasera. No, stasera veramente siamo in tre. Non possiamo dire quattro gatti, perché comunque se andare in questa in radio non è che possiamo dire in quattro gatti, però siamo in tre gatti, vabbè. Continuiamo con un po' di musica, poi così almeno ci rilassiamo un poi attimo. Poi mi aggiornerai su tutti gli eventi. No, abbiamo tante Wolf Trips. Abbiamo tante news, infatti secondo me anche Katia è molto aggiornata e sta aggiornando anche le stories, giusto? Su Instagram. Sta aggiornando tutto come si deve. Ok, quindi seguiteci anche su Instagram. Direi che storia, come lo dice. Andiamo ad ascoltare un altro brano di King Shy. Ci spostiamo sulla ormai affezionadas etichetta Dusted Walks, che qualche brano lo mettiamo sempre per puntata. Il brano è di King Shy con Walk. Avevamo già ascoltato qualcosa di questo artista, ma sempre di un EP del 2018 che si chiama Red. Ma andiamo ad ascoltarci questo brano, che secondo me è molto interessante, molto carino, tranquillo, da inizio serata. Ok. We'll be right back. Tony, ti sei un po' acclimatato oggi? Sì, beh, sì. Sono un po'... Perché i primi pezzi effettivamente di voi, se uno venisse a vedere o ci guarda sì, in diretta su Facebook, poi posterò anche i miei contatti che... lo capisce che i primi pezzi da noi è sempre un delirio. Ma corri, secondo e me anche disfa. Perché siccome adesso sono varie cose da mettere insieme, cioè i social, metti il cioè non tutto è facile, insieme non riesci più. Infatti ci sta dando una mano Katia per questo non motivo male. Perché sennò che storia Katia. Sì. Hai messo già qualche storia su Instagram. Anche io avevo i miei contatti da giornale, adesso mi metto a lavorare. Va bene. Intanto, ci scrivi adesso. Intanto, già che ci siamo, allora dobbiamo salutare il buon Daniele che ha iniziato il programma mercoledì. Io sono andato subito anche a seguirlo un pochettino. All you can. No, sì. All you can eat? No. All you can eat, sì, ho visto l'orario, sì, ci sta. All you can eat. E poi dopo dobbiamo salutare, mi diceva Sara che è a Genova. Sara che giusto? È a Genova e Daniele da Milano. Perfetto. E beh, niente, tu hai qualcuno da salutare? No, tu non hai nessuno da salutare. Ah, salutiamo la Sabrina. Ah, giusto, che sicuramente ci starà ascoltando. E invece il Fabio invece è dato per disperso. No, no, è Fabio lavorare. Stasera devi lavorare. È un weekend impegnativo. Per una volta che lavora, va bene, dai, lasciamolo lavorare. Vabbè, lo salutiamo anche a lui. Che tra l'altro poi gli sto dando, lo sto riempiendo di compiti per Wolf Trips, sappiatelo. Beh, lui su queste cose poi lui ci proprio. Infatti. Al contrario di me. Lo sfrutterò, lo spremerò tantissimo. Sì, ma non ti preoccupare che adesso ti metto a lavorare anche a te. Bene. Per bene. Esce fuori il suo direttore che è in sé, no? Giustamente il direttore dei lavori. Vabbè, io direi che continuiamo con un brano sempre della Dusted Walks, che è Kingdom. Kingdom. Ho capito che è la tua preferita. Sì, ci spostiamo dalla Siberia, perché l'artista precedente era il primo artista che aveva messo quest'anno. Ti ricordi parlando della Siberia? Quello che ha rotto il ghiaccio. Bravissimo. E passiamo invece a Proletar. È un pezzo che abbiamo già ascoltato. Però devo dirti la verità, questa playlist l'avevo preparata mesi fa. Quindi è un pezzo un po'... magari qualcuno l'ha già ascoltato. È un campione molto, di un brano molto vecchio, però il pezzo merita molto. Si chiama It's Don't Mean a Thing ed è del genere swing, electro swing, swing hop. Un genere che... Vabbè, che aveva già preso piede, non è che stiamo scoprendo, però. Sì, in Italia è arrivato. Però mi sembra che è già sparito. Cioè, dipende anche dalle pubblicità, ecco. Bravo. È già sparito, è vero. C'è il momento che va tutto. Però, devo dirti la verità, in alcune trasmissioni barra talent sento che lo mettono spesso. Sì, è un po' alternativo. Rimane comunque nell'alternativo, non è mai diventato troppo commerciale. Andiamo ad ascoltarlo quindi, Proletar con It's Don't Mean a Thing. Yeah. Vabbè, io me lo riascolto sempre volentieri questo brano, mi piace. No, bello, bello. Piace anche a me. Hai visto? Hai visto? C'è sempre qualcuno. Intanto salutiamo la Cree che ogni tanto mi scrive che gli ha rubato le cuffie. No, in realtà gliele ho prestate io, a Katia. Si vede, beh, ma sono anche bianche. Ciao Cree, non le voglio prendere, ciao. No, se no ti prendi queste nere che però rilasciano delle sostanze tossiche nella testa. Ah, no, no, sono vecchie. Ha quelle tutte frantumate. Sono frantumate, ormai sono vissute quelle cuffie lì. E ti dicevo un po' di news per poi, Wolf Trips. Diciamo che io ti ho dato un la. Cioè, sì, e io ho preso il sol, quindi. Sì. Ma però il sol va indietro, quindi dovrei prendere un sì per andare in avanti. Vabbè, sì, perché nella scala sarebbe maggiore, sì. Se no andrei indietro col sol. Vabbè, e dopo questa stronzata direi che possiamo continuare. Ti dicevo, una novità è praticamente siamo stati selezionati sul sito fortune.fm come, diciamo, podcast che può essere ascoltato tramite la loro app. Praticamente è un nuovo sito italiano, la cosa interessante è che è un progetto italiano e propone musica e podcast, dicendo una nuova esperienza d'ascolto. Loro propongono più che altro, facendoti un giro un po' sul loro sito, podcast narrativi, sì, nel senso favole, diari, parlano di argomenti magari più tematici e poi hanno anche delle serie tra virgolette audio, perché La casa nella notte, se non erro, sono proprio degli episodi stile horror, mi sembra che fossero usciti nel periodo di Halloween, e horror, thriller, una sorta di serie fatta proprio su podcast. Sì, che poi non è una cosa nuova, cioè, no. Una volta nella radio si facevano gli sceneggiati così, cioè. Bravissimo. Infatti parlando anche con un mio caro amico che ne sa, diciamo, hai già capito, immagino, okay. Chi è? Lui dice che questo è giustamente il futuro, nel senso, riguardando un po' al passato, il futuro è fare la radio, sì, però poi avere dei contenuti che sono possibili ascoltare quando uno ha voglia. Tutto personalizzato. Infatti Wolf Trips, tra l'altro, abbiamo deciso da quest'anno di proporre sia la puntata in podcast, ma anche degli extra, sì, che possono essere le interviste, i DJ set e varie cose. Anche magari uno vuole ascoltare le novità di quell'etichetta discografica, può ascoltare anche solo quello. Sì, diciamo che la gente deve essere un po' coccolata, ecco. Sì, perché bravo, bravo. Non ha più voglia di. Non lo so. Beh, come dico sempre, no? Sì. Siamo diventati una sorta di. Adesso faccio una metafora di quelle atomiche, senti, proprio. Senti, una sorta di Virgilio, ecco, vedi. Beh, più che. È vero. È vero. No, nel senso che tu hai tutta la musica che vuoi, tutto, sì, il mondo di musica, che ne hai un miliardo, ma che t'ascolti e noi ti diciamo cosa ti puoi ascoltare. Roba che magari non avresti mai potuto ascoltare normalmente, no? Stavo leggendo anche in questi giorni di un argomento di come gli artisti italiani, diciamo, non della vecchia guardia, ma quelli che sono usciti adesso comunque vengono scavalcati dalla musica comunque che non viene più comprata ma ascoltata, sì, perché non è più importante la classifica di vendita ma quella di Spotify, infatti. Eh sì. Cioè, infatti, lo streaming supera anche se non si guadagna niente, ecco, cioè alla fine è musica che non si guadagna niente. E noi comunque andiamo su un'altra musica che, anche se non guadagnano niente, però. No, almeno forse gli facciamo guadagnare qualcosa. Forse magari gli facciamo guadagnare qualcosa e comunque gli possiamo dare il modo di avere un minimo. Non c'entra niente, ragazzi. No, noi no. Però gli possiamo dare un po' di visibilità, sì, ed è comunque un una cosa che a noi piace. Spostiamoci, quando ormai nelle ultime puntate facciamo sempre il solito filotto, diciamo, sì, no? Ascoltiamo un po' di Dusted Walks, poi ci spostiamo sulla Block Sonic. E quindi ci spostiamo sulla etichetta Block Sonic, che tra l'altro saluto perché ci ascoltano sempre. Ciao ragazzi. Non so cosa capiranno del nostro italiano, ma vabbè. Ho salutato in italiano, beh. Hai detto? Andiamo a ascoltare un brano di un tizio che è difficile da dire, allora aiutami. Aspetta, allora, è? L'autore è questo. È Victor Van River. Vabbè, non era così difficile. Poi il brano è Intelligence. Ecco, ok. Ti ho fregato. Il brano. Ci spostiamo sul down tempo hip hop. Ah. Quindi sulla cosa un po'. Andiamo un po' sul sofisticato. Sì. Andiamo a ascoltarci. Thank you. momento. Katia, sei entrata nel momento sbagliato, te lo dico. Comunque, questa era abbastanza da un tempo? Non lo so, secondo me è un genere un po' particolare. Ma sai che da un tempo non so perché... Da un tempo io ho ascoltato qualcosa di da un tempo in questi giorni. Sì, una volta si chiamava Cilla, cioè è sempre fatto no, della Cilla. Ma da un tempo è più tipo Morciba, sì, non è proprio trip hop, cioè, però alla fine siamo sempre lì, cioè. Vabbè. Ci sono... Comunque loro sono questo brano è del 2018 e loro sono degli artisti di Aimati, Kazakistan. Te capì. Ma vedo che la Russia, cioè l'Unione Sovietica o ex Unione Sovietica dà molte... Tra l'altro Black Sonic in realtà è della California, quindi è tutto un giro tu un po' particolare. Stiamo parlando fuori onda del QR code. Tu non sai che cos'è il QR code? No, male. No, so che cos'è, ma non so perché ci serve. No, non è che ci serve. No. In realtà l'idea era di avere un'immagine col QR code da poter mandare un po' ovunque. E abbiamo creato quindi un QR code apposta di Wolf Trips. Se tu lo scansioni col tuo cellulare, ti collega direttamente al podcast di iTunes. Vedi perché serve. Pensavo che era una... tipo qualcosa che ci dava qualche soldino, nel senso che cioè, uno aggiunge niente soldi, Tony, solo spese. Che l'anno prossimo il bancomat sarà anche quello online, quello lì, bancomat di Wolf Trips, dice. Sì, bancomat. Potremmo inventarlo. sì, vabbè, con quali soldi non si sa, però no, vabbè, ci devono dare i soldi. Scusa. Intanto adesso vedo di contattare il nostro ospite della serata che viene da lontano. Doveva essere qua in puntata. Non svelo ancora il nome. Sì. Però devo dire solo. Dove è che abita? Allora, non vorrei dire una stupidata. Mi sembra Modena. Però glielo chiediamo dopo al telefono perché ce l'avremo con l'intervista telefonica. No, dico che doveva essere qua di persona. Però purtroppo non è stato proprio benissimo. Quindi ci sta. Nel senso, ci facciamo solo un'intervista telefonica. Ma io ho detto di farsi ritrovare qua nel 2019, quindi ci ha promesso che nel 2019 verrà. Sì. Poi abbiamo dopo pubblicare le altre interviste che faremo da qua a fine anno, perché sono veramente tante. E poi ci sarà l'ultima puntata di fine anno. Quindi facciamo Capodanno qua? No, Capodanno no. Aspetta, ti dico, tanto c'è il mio sarà il 28/12. Faremo l'ultima puntata dell'anno che faremo la classifica delle etichette abbiamo nel net label, diciamo delle net label che ci sono più piaciute in questo periodo. Adesso quante ne hai selezionate? 5. No, tante. Adesso dopo ti farò vedere. Ho già fatto una mini chart. Va bene. Sai che a me piacciono le classifiche. Anche a me. Diciamo non eccessive, nel senso. Non se ne esce più dopo. No, ma infatti, secondo me ce ne sta una che so a fine anno. Sì, è una a fine stagione. Basta. Io direi facciamo così e non sarebbe male come idea. Intanto, invece di parlando di classifiche di fine anno, passiamo invece a un gruppo che a me piace veramente tanto. Non so cosa c'entra con le classifiche, ma vabbè, lo metto lì. Così. Magari un giorno hanno un nome di quelli che si utilizza molto spesso ultimamente nei un nome dove si tolgono le vocali, quindi loro sono i Gladiators. Però è scritto GLD8TRZ. Sì, okay. Il brano si chiama Great Escape, grande uscita. Del 2016 ed è una formazione di MC, cioè loro praticamente sono un insieme di MC che si sono trovati all'interno dell'etichetta Block Sonic e hanno detto sai cosa faccio? Facciamo un nuovo progetto. E quindi niente, hanno creato questo brano che si chiama Great Escape. A me piace molto. Vabbè, è un mischione di generi. Andiamo ad ascoltarcelo. We all feel like no exit at certain times that we just need to escape. Yeah. Let me take a ride on this great escape. Get monkey on the track, get monkeys off my back and drown them. And that's a bathing ape. Gotta get this rushed off, game's mine. Dust off them save the dates, cuffs off, now I can't stop. It was only right I take a break, get it? My mechanics still got advantage over anybody on the planet. You're wrestling with a Tesla, put bodies on the canvas. Hot trash, ain't got class, I tsunami on your campus. I'm hot shit, spit toxic, I probably need a pamper. That's beside the point, like a new sentence. My verse is iceberg, I mean your crew finished. I align words and time perfect, who did it? They screaming on the scene, I leave no loose endings. Breeze on his good foot like your shoes missing. They expect to go, but we're trapped here. Looking for the greatest, nowhere to go. Looking to the we gotta make the most of this.

vabbè, questi brani qua piacciono, tutto sommato. Ma il bello anche di questo programma è che infatti facciamo un miscuglio di tanti generi, non è che magari è una cosa bella, quasi sull'elettronico, però va bene, già. Sì. Beh, questo c'era un minimo, sempre in minimo, pop, però un minimo di elettronico c'era dentro, old school. Sì, bravo. Intanto dovremmo avere al telefono Michele Panf Mantovani, H Push Against New Fake. Ci senti? Sì, ciao. E, devo dire, devo fare un'errata a corrige, che abbiamo sbagliato a scrivere il tuo nome su sull'immagine di Wolf Trips e non sono riuscito a cambiarla, tra l'altro. Ho fatto un disastro Però visto che tu hai rimediato tutto sommato, dai. Ho corretto tutto, ma non è un problema. No, adesso quando rimettiamo il podcast ci rifacciamo, non ti preoccupare. E tu di dove sei, prima di tutto? Allora, più o meno ci avete azzeccato, nel senso che non sono di Modena, ma provincia di Mantova, però al confine con la provincia modenese. Ok. Infatti ha detto, io non ero è sul Po, lui è sul Po. Sono sul Po, esatto. Tipo un chilometro da qui c'è il Po, sono proprio lì. Bene. No, perché mi sa che il domenico sei un po' confuso, c'è un po' di nebbia, come dire. C'è sempre un nesso, comunque, nel senso che a Modena, invece di Modena lavoro, la fidanzata è modenese, quindi dai. Ma anche l'accento sembra molto più di qua che... Sì, in effetti non sono un po' bastardato con il... caspita, spiace che non ci sei qui oggi, però dai, sì, magari dispiace... nel 2019, sì. Come ti dicevo, tanto è qua, le porte. Sì, ci teniamo ad esserci, magari faremo un live set, se vi va. Volentierissimo, sì, guarda. Ecco, quello lo farei volentieri. Porta quello... anche due tortellini, già che si sa che... Sì. Visto l'orario. Ma raccontaci un po' del progetto, dici un po' in che cosa consiste, cosa fai. Ma guarda, attualmente è l'unico progetto che mi è rimasto. Tieni conto che io nasco come chitarrista, quindi ho sempre suonato solo la chitarra e in diversi progetti rock, prettamente rock. Poi a un certo punto ho cominciato a appassionarmi alla registrazione, quindi ho cominciato a giocare con Logic Pro e ho cominciato a scoprire un po' questi virtual synth, suoni elettronici. E dal 2012 esiste questo progetto, Push Against New Fakes, e poi parallelamente avevo un altro progetto che era un mix di rock e elettronica, ma alla fine sono arrivato a mantenere solo questo progetto perché tra gli impegni di lavoro, ho deciso di concentrarmi solo su questo e ho pubblicato finora 4 dischi, sempre con Matt Labber, stando il primo che era autoprodotto. Infatti è da lì che ti abbiamo conosciuto, dalla Phono Cake, diciamo che da lì abbiamo... Sì, esatto, con la Phono Cake ho pubblicato un paio di lavori e niente, continuo su questo strada. Vuol dire che mi piace molto l'elettronica, sono abbastanza ignorante in materia, però amo molto le cose che sto facendo in questo momento. Senti, un dubbio che avevamo dalla prima puntata, da quando abbiamo messo il primo pezzo, ma cosa vuol dire il tuo acronimo o nome, ecco? Allora, guarda, sostanzialmente non vuol dire niente. Ah, ecco. Suona bene. Sì, esatto. Tutto parte dal fatto che Panf è il mio soprannome che mi hanno, come dire, attaccato quando andavo a scuola, alle superiori. E anche quello non ha un significato, a parte il suono, che magari ricorda un po' il mio essere cicciotto, formoso, definiamolo così. E dovevo trovare un nome per il progetto, siccome io di fantasia per i nomi e anche per i titoli delle canzoni ne ho poca, e ho preso l'acronimo Panf, ho cercato 4 lettere, 4 parole che stessero bene insieme ed è venuto fuori Push Against New Fakes. Può sembrare che abbia un significato, ma in realtà per me suona bene, niente di più. Fa figo, fa anche. Sì. Allora, facciamo così, ascoltiamoci uno dei primi brani che avevo selezionato e poi dopo continuiamo a parlare, che ho già un paio di domande interessanti. Andiamo ad ascoltare Dead Dance. Thank you. era il brano Dead Dance, quindi danza mortale, giusto? Sì, esatto. È vero che te dicevi che non avevi grandi fantasie, però magari aveva un senso questo brano, sì, no? Hai scelto comunque il pezzo fosse il più tamarro della mia io adesso non è che non mi nego, però diciamo che come suoni, come approccio, per me suona molto tamarro. Comunque sì. Possiamo sapere le tue fonti musicali? Da che cosa ti ispiri, cosa ti piace? È una domanda interessante. Allora, se fai conto che magari non sembra, ma vista l'età, io sono molto su col Seattle Sound, ecco, sembrerà incredibile, però... Quanti anni hai, scusa? 43. Io ne ho 44, sono Tony, ciao. Non sembrava, te ne avevo detto di meno. Quindi sono cresciuto con i Pearl Jam, soprattutto il Soundgarden, il Ginchin. Sì, roba della nostra radio, diciamo. Sì, esattamente, la musica degli anni 90, sì, sì. Con molte chitarre, eccetera, eccetera. E mi sono avvicinato all'elettronica dopo aver ascoltato un disco degli Auken, che ben bresciana, che magari non tutti conoscono, sì. Ma poi piano piano, tra l'altro mi è capitato di andare a Berlino e cominciare a sentire la musica elettronica. Se non passi da Berlino... Non... esatto, lì cambia qualcosa, succede qualcosa, perché secondo me in Italia vai in discoteca e senti solo dell'elettronica brutta, la definisco brutta per non dire altro. Invece quando vai a Berlino dici, cavolo, questo è bello, e cos'è? Ed è techno, e io non avevo mai ascoltato la techno, per dire. E quindi piano piano da lì ho cominciato ad ascoltare in Modera, per esempio, Kalkbrenner, cose molto conosciute tutto sommato. Sì. E fino ad arrivare adesso gli artisti preferiti sono Hopkins e gli islandesi Chiasmos, per fare un esempio. Mi sembra di sentire un DJ che parla. Sì, dai. Vabbè, comunque noi abbiamo ascoltato quel brano lì, perché noi un po' di tamarri siamo, quindi abbiamo visto quel pezzo lì e detto, caspita, che bello. No, come presentazione, come brano introduttivo, è perfetto. Adesso invece passiamo sulle cose un po' più, diciamo, ricercate, un po' più serie. Mi hai parlato di un remix che hai fatto da poco. Ecco, dici qualcosa in più, così almeno andiamo a ascoltarlo. Sì, quello è, diciamo, il mio ultimo lavoro, nel senso che l'ultimo disco che avevo pubblicato era un EP che è uscito a ottobre del 2017. Poi da allora, diciamo, fino appunto all'uscita di questo remix è passato più o meno un anno e non avevo pubblicato niente, ma io sono stato comunque molto in giro, nel senso che ho fatto 17-18 date circa. E quindi non mi ero concentrato su materiale nuovo. Questo, l'ultimo pezzo che è uscito, Kunken, è un pezzo dei Future Sound of Conco, che ricorda un po' il Future Sound of London. Sì, è vero. Il nome. Sì, sì, e sì. Sono degli amici vicentini, si sono conosciuti per vie musicali, una storia un po' lunga, e siccome loro avevano remixato un pezzo del mio ultimo disco, in cambio mi avevano chiesto appunto di remixare un brano dal loro EP che era uscito, e alla fine ho provato, ho dato fuori questo brano che a me piace molto, che forse suona un po' più diverso, sì, più maturo rispetto ad altre cose, ma sono molto contento del risultato finale. Sì, è un'elettronica effettivamente un po' più ricercata. Quindi andiamo ad ascoltarcelo, esatto. Il remix è del brano Kunken, giusto? Kunken, sì, okay. Esatto. We'll be right back. di Tony, che dici di questo pezzo? Bello, bello, mi sembra di essere a Berlino. Sì, è vero, è vero, è vero. Ci senti, Michele? Sì, sì, ci okay, sono. Ok, ok. No, io ho sempre paura di questo telefono, non si sa mai. Michele, quindi... io aspettavo di avere il buco per inserirmi, quindi sono stato tranquillo. Hai fatto bene, fatto bene. Michele, te ti sei mai spinto fino qua a Milano? Perché comunque per un certo tipo di musica, diciamo che... Cioè, se sei in giro per Milano a fare serate... Sì, so che Milano, infatti... potrebbe essere il posto più adatto per la mia musica. Purtroppo non ho avuto ancora occasione di suonare da quelle parti lì, perché nonostante quest'anno abbia suonato parecchio e anche un po' in tutta Italia, fino anche a Chieti, per dirti, sono in centro Italia, a Milano niente, devo dire che è molto difficile trovare date, anche col genere di musica che faccio, perché insomma io sono uno sconosciuto, per cui già per me il risultato di 17-18 dati in tanti posti, anche in qualche paio di locali molto belli, e per me è già un successo, ecco, devo dire la verità. Senti, ma cosa c'è stato il Club to Club a Torino? Te sei mai stato, una cosa che ti no, purtroppo non ci sono mai stato, devo dire che guardo sempre il programma e dico sempre che ci andrò e poi per fortuna io non abito lontano da Bologna, e comunque anche Bologna è una città molto interessata all'elettronica, quindi ricordo che un anno ho avuto la fortuna di andare a Robot e vedere in Modena e John Hopkins uno dopo l'altro, e quindi tutto sommato, anche se sono lontano dalle grandi metropoli, la possibilità di vedere e ascoltare della musica elettronica valida ce l'ho comunque. Vabbè, ma non è male star fuori dalle città grosse in fondo. Sì, io magari più ispirazione, perché sì, vi dico sempre che qua o ci si droga, o ci si ubriaca, o si fa musica, o tutte e tre le cose insieme. Beh, però a volte il fatto di non avere niente, o avere la campagna che ho, è comunque una spinta a fare qualcosa, a muoversi di più, secondo me. Intanto volevo salutare Fabio, che è arrivato, il nostro elemento, il terzo elemento di stasera, perché l'elemento di disturbo, ciao, ciao. Chiamiamo. Quindi sicuramente ti farà qualche domanda anche lui, adesso si sta un attimo ambientando. C'è anche il nostro ospite. E andiamo ad ascoltare il tuo prossimo brano, che è Something Red. Non mi ricordo dove... Aspetta, dammi qualche informazione in più, tipo... Allora, è uscito... c'era contenuto nell'album Many Colors You Can See. Ah sì, che aveva una copertina bellissima, mi piaceva parecchio. Sì, che ha fatto tra l'altro un mio amico che è un illustratore, che è diventato illustratore anche ad alti livelli, e... un pezzo che parla di capelli rossi. Infatti mi viene in mente il cantante degli Simply Red, perché anche, sembra anche il titolo di una canzone. Io pensavo a dei capelli rossi e l'ho intitolata qualcosa di rosso. Giusto, giusto, andiamo ad ascoltarlo. anche questa è molto berlinese come sì. brano, no? Ci sei, Michele? Sì, sì, c'è, c'è. Poi, a proposito, oggi è l'anniversario della caduta del muro di Berlino. Sì. Ah, 89. Comunque vi ringrazio per i riferimenti al sound berlinese, insomma, vuol dire che qualcosa ho imparato forse. Si sei partito, diciamo, dal primo brano che era più, dai, mettiamolo un po' più da giostre, da giostre, no, no, ma sto scherzando, da giostraio, perfetto, no, da giostre no, che ancora gli autoscontri, no, no, no. E poi dopo invece siamo andati sui brani un po' più di elettronica, però fa strano che nella terra del Lissio, no, forse sì, come più o meno. Più o meno come ti si, cioè l'ispirazione dove esci fuori? Cioè, avevo chiesto l'importante sia non andare nelle palere, non mi ma l'età è quella, dai, più o meno ci avviciniamo, per stare fuori da quel giro. Poi in effetti intanto mi chiedo cosa farò fra 20 anni, ho un po' paura che mi ritroverò a suonare con Casadei. Ma Casadei sono i temi, no, comunque tanti gli scherzi, anche il mio paese, che è un paese piccolo, 5-6 mila abitanti, è tutto sommato ricco di musica e musicisti, anche ci sono altri ragazzi che fanno musica elettronica, quindi nonostante purtroppo la mazurka e il miso dovrebbero essere la mia musica, non lo so. C'è un festival, qualcosa che organizzano dalle tue parti di musica alternativa? Ma guarda, proprio dalle mie parti, no, io per un paio d'anni avevo organizzato qualcosa, avevo provato a fare un testo, una parola grossa, perché era un evento di una giornata, ma si fa molta fatica, e la fortuna che ho è che comunque nel mio paese abbiamo il Circolo Arci Cinasti, che è sono la salvezza di tanti musicisti. Sì, perché è il circolo con più tesserati, tra l'altro in provincia di Mantova, e dove fanno suonare ogni weekend, almeno 2 volte a settimana, quasi solo musica inedita, tutti i generi, per cui ho anche la fortuna di ascoltare cose che magari non ascolterei, ed è l'unica cosa bella che musicalmente abbiamo qui. Ma tu vai da strumentista o fai il DJ? Cioè live set, ma penso, secondo me ho fatto qualche DJ set, ma era in un periodo che volevo divertirmi un po', tra virgolette, ho provato, però definirmi DJ non si può, cioè, non ti vesti di nero come tutti i berlinesi, secondo me il DJ è quello che mixa con i vinili, questo è vero, questo è vero, bisogna essere bravi a fare il DJ. Ciao, io sono Fabio, l'ho fatto per divertimento con tractor, così, perché era un periodo che comunque non stavo scrivendo musica nuova, e attualmente comunque faccio solo live set e porto in giro solo la mia musica. Al momento non ho in programma di fare dei DJ set, però se qualche amico me lo chiede sempre ben volentieri. C'è Fabio che ti chiede una cosa. Ciao, io ero curioso di una cosa. Fabio. Ciao. Ascolta, mi dicevano qua, perché sono arrivato in ritardo come al solito, che sono stata la pecora nera del gruppo, che tu nasci come musicista, come chitarrista, no? Sì, esattamente. Ok, la mia domanda è: quanto ti è stato utile in questo nuovo progetto, in questo nuovo stile, che poi sembra totalmente diverso, la conoscenza magari della chitarra, di ciò che sono la parte musicale? Presumo che abbia tu studiato, conosca comunque ciò che sono... Allora, ti fermo un piccolo, sì, punto, che io non ho mai studiato, nel senso che io sono completamente autodidatta, sia per la chitarra, la musica elettronica, i recording, mi sono sempre arrangiato, e ormai i dischi me li registro tutti io, li registro e li mixo io. Forse la chitarra può essere utile, magari non l'ultimo disco, ma i dischi precedenti un po'. Secondo me a volte si ritrova un po' la struttura delle canzoni che potrebbe esserci in una normale, tra virgolette, rock song, perché non dico la classica forma ritornello, strofa, ritornello, strofa, però qualcuno mi aveva fatto notare che si sentiva che comunque venivo da un ambito chitarristico, comunque avevo sempre suonato con una band. Sì. Quindi forse quella è l'unica cosa che mi ha un po' lasciato. Presumo che magari quando, non so, quando componi, adesso ti dico perché anch'io ho suonato per diversi anni, magari pensi, non so, faccio questo giro, cambio in giro di quinte, una minore in giro di qua, cioè sì, ti può essere utile ciò che è l'ambito... No, io ti dico assolutamente, magari anche sbagliando, però la teoria la lascio proprio fuori. Se vai più ad orecchio te. Sì, esattamente, nel senso che non è che ho, anche nella scrittura, quando butto giù le idee nuove, non ho un piano per vedere, nel senso che molti pezzi sono nati da un synth, altri magari da un loop, da una drum machine, altri ancora magari da un suono, del suono ambientale che ho sentito, che ho trovato qui e là. Non ho una regola, non mi sono dato una regola. Ammetto che di teoria musicale so ben poco, perché sono un chitarrista, ero un chitarrista autodidatta, quindi ti posso dire che tutto quello che ho prodotto fino adesso non è mai stato studiato tanto dal punto di vista della teoria musicale. No, però sentire comunque hanno una bella armonizzazione, cioè per dire, probabilmente ti avvicini a ciò che si dice l'orecchio assoluto, no? Basta che l'ascolti e comunque rimani in linea con l'armonia della canzone. Sei pronto per la balera? Metto una buona parola per i Casadei. Che quello che ascolto in certo senso poi rimane dentro, quindi è per quello che non ascolto il liscio, continuo a non ascoltarlo fai bene. Io vorrei imparare a suonare la fisarmonica, signore, cioè, ve lo dico perché l'ho sempre ammirata, questo strumento che va anche con la tastiera, che è difficile, ci va bene anni impararlo. Andiamo a ascoltare il prossimo brano, che è Dislike, poi dopo ci dirai qualche informazione in più su questo brano. Ok. Questo è uno dei brani che mi piace di più di quelli che hai fatto, Michele. Grazie. Non so, c'è un qualcosa di particolare. Per i miei gusti elettronici è uno di quelli che mi piace di più. Io stavo notando che una cover di un tuo EP, mi sembra, giusto? Aspetta che ti dico anche, ecco, quale. Stavamo sbirciando un po' su Bandcamp. L'EP si chiama Be Kind, giusto? Sì. La copertina ricorda un album dei Placebo. Sì, in effetti... la copertina è poi quella che ha fatto la copertina, se ha fatto un autoscatto, sì. Lei ha questa abitudine di fare la fotografa, ma spesso si fa quasi solo autoscatti, e ne ho mandato diversi provini di sue foto, e ce n'era uno in cui c'era appunto questa sensazione di movimento che mi ha ricordato ovviamente una copertina di Placebo, e, però mi è piaciuto, quindi anche se sapevo che l'idea era molto simile se non uguale a quella, era, questo era lo scatto che più mi ha colpito e alla fine abbiamo scelto quello. Musicalmente non c'entra niente con il Plasivo, non ti hanno ispirato per nulla o comunque... Il Plasivo mi piacciono, li ho sempre ascoltati, li ho visti anche dal vivo un paio di volte, per cui cioè, sì, sono parte un po' meditano sempre. Sì, sì, infatti. Ah, niente, allora io direi siamo arrivati dulcis in fundo dell'intervista. Volevo chiederti di lasciare un po' i tuoi contatti, dove possiamo ascoltare la tua musica. Sì, certo. Allora ci tenevo soprattutto a precisare una cosa, che la mia musica è sempre in free download. Perfetto. È una scelta che continuerò a portare avanti, per cui soprattutto chi va su SoundCloud, quindi soundcloud.com/pushandisneyfix, c'è tutta la discografia che si può scaricare. Sono presente ovviamente su Facebook, ho anche un sito internet, ma non è che lo uso moltissimo, ormai la gente non è che guarda molti siti, per cui l'unico consiglio che posso dare è andare su SoundCloud e scaricate tutto quello che c'è. E una cosa che riguarda un po' più il nostro programma, visto che noi viaggiamo un po' sulle net label, allora io ti ho trovato sulla Phonocake, però visto che l'ultimo remix è sulla Alienated Record. Sì, esatto, perché l'etichetta poi del brano, penso, sì, parlavo sì. Prima. Sì, sì, sì. Però Alienated Record comunque non è una net label, giusto? Guardato, no, sostanzialmente no. È un'etichetta però, vera e propria. Esattamente, okay. Infatti poi l'EP in cui è contenuto il remix lo trovi su Spotify e sugli altri canali di distribuzione. Okay. Io non percepisco niente da per scelta, e comunque mi hanno concesso la possibilità di metterlo in free download, per cui su SoundCloud anche il remix si può scaricare gratuitamente. Ottimo, ottimo. Una bella idea, una bella idea questa. Di fare questi accordi con chiunque, con l'etichetta, quella che è, o con gli artisti che magari remix, per me è una prerogativa, senza il free download non ci sarebbe stato un remix. Ok, ok. Va bene, noi ci ascoltiamo l'ultimo tuo brano che è Black Lovers, ti salutiamo e niente, ti aspettiamo qua. Ciao Michele. Quando potrai passare. Voi. Ringrazio soprattutto te Domenico per la gentilezza e la disponibilità, appena vuoi vengo a suonare. Magari quando hai o per suonare, che non sarebbe una bellissima cosa, abbiamo già avuto anche un po' di live set, non sì, sarebbe male, oppure se produci fatto. Qualcosa di nuovo e vuoi venircelo a presentare, non sarebbe male. Adesso prima che esca un altro disco secondo me ne passerà un po', perché no vabbè dai, ti aspettiamo più a breve, allora sono messo a scrivere adesso, quindi ci vuole del tempo, però spero insomma di poter venire in radio da voi il prima possibile. Va bene, va bene. Fare qualcosa insieme, più che volentieri. Va bene, grazie di tutto. Grazie. Ciao Michele, ciao. Ciao a tutti, grazie, buona serata, ciao. Wall Street. Euro è il posto nuovo. Questo era un brano di Tim Sousa, House of Lazy People, quindi la casa non lo so, sarà piemontese, visto da Sousa è stato prezzerato in castagna ed è la casa dei delle persone lesi, delle persone diciamo pigre. Però mi diceva Fabio che gli piaceva il giro di basso, quindi sì, bello. È una bella dinamica. Giusto, intanto salutiamo di nuovo Michele. Panf Mantomani. Ciao Michele. Che se viene a fare live non sarebbe male. No, anche noi potremmo andare, magari ci invita a mangiare due cose. Andiamo a fare live con i piedi sotto al tavolo. Ecco, mettiamolo così. E questo era un brano della etichetta tanto amata da Tony, la etichetta la Brook Records. ogni volta è sempre sto gingolettino, però in realtà è un'etichetta molto seria tedesca, giusto per rimanere in tema con quello che stavamo parlando prima. Perché loro poi i tedeschi hanno inventato, come si dice, come si chiama, il Krauti. hanno inventato il romanticismo, no? I tedeschi. Questa non l'ho capito. Nel letterario. Guarda, sì. È perché. Ah, no, la stai dicendo seriamente. Pensavo che era una battuta. Perché no? In realtà. Però sembra una battuta, perché. Qua ci voleva la jingle palette che diceva. Diceva tipo Fantozzi, no? Non è che, però in realtà stai dicendo una cosa seria. È una cosa pazzesca! Però la jingle palette seria. Mi sembra quella cosa che usi per raccogliere la lettiera di gatti. No, invece mi viene in mente la raclette a me, no? La raclette. Tu sempre fame. C'hai fame. Certo. Diciamo che è una cosa a libera interpretazione. Se qualcuno non l'ha capito. Siamo entrati nel momento più pirla. Sì, tra l'altro ora abbiamo anche superato, anche perché sono arrivato io, quindi l'avvento della demenza. Abbiamo già superato l'ora. No, non è l'avvento, è la, come si chiama? Ah sì, è l'avvento. Siamo entrati nell'avvento, certo. No, ancora no, ancora è presto. Sì, 40 giorni. Ma va, a dicembre. No, siamo a 40 giorni. 40 giorni. Prendete un calendario. No, secondo me non siamo a 40 giorni da Natale. Cioè, scusa, oggi se, a 40 giorni sarà dopo il 15. Hai ragione. Scusa. Vabbè, comunque io direi che non è possibile. Sono avventato, scusate. Non è possibile. No, è il titolo del prossimo brano. Non è possibile. Come è possibile? No, allora cambiano. Aspetta, ma chi sono questi? Lui si chiama Mu. Ciao Mu, italiano. È un progetto del. È un progetto della Quiet Bump, è del 2007, quindi anche abbastanza un po' vecchio. Datato, diciamo. È un po' datato. Comunque si trova in archive.org. Teoricamente sì. Avevamo già ascoltato qualcosa di suo. E lui mischia un po', mette anche un po' di robe di dialetto napoletano con queste basi molto dub. Adesso andiamo ad ascoltare. L'etichetta è ancora attiva. E Quiet Bump l'abbiamo intervistato un po' di tempo fa. Scusa, ho visto il 2007, per sé a volte. Ah no, è uno dei loro primi brani. Etichetta dell'Irpinia, non so se sì, ti ricordo. Sì, abbiamo parlato l'altra volta. Beh, andiamo ad ascoltarlo, poi dopo mi dite un po' che ve ne sembra. Sto cercando di rintracciarlo per intervistarlo, ma devo dirti la verità, non è facile. Non mi dispiacerebbe intervistarlo. Magari sta suonando in giro. Può essere. Sembrerebbe un altro mondo, la linea parallela al riflesso della luna, illumina le impronte a scatti e le confonde ad una, com'è possibile, difficilmente immaginabile, tentare di bloccare il moto irreversibile, la lava quando scende in fondo lentamente brucia, soltanto il tempo di trovare un primo impatto e poi combacia, inoltrarsi verso altre strade prende male, lasciarsi andare al cospetto delle ombre non conviene, in effetti è solo brio chiuso dentro il sottosuolo, oltre una specie di delirio, spinto verso un altro volo. Si contano i corpi ad uno, cadaveri eccellenti nella mente di qualcuno e mi prende il freddo sulla pelle come un brivido, le lacrime attraversano la luce in un attimo. Risalire la corrente, l'aria pesante comprime tutto quanto inutilmente, ora forse è troppo tardi per imparare. comprimere un'altra rotta altrove da un'altra parte e poi confondere le acque torbide, la linea inutile, le ombre che da sole vorrebbero eludere il contatto con il nulla intorno al quale intercedere, rallentare il ritmo cardiaco e poi soccombere, confondere il buio con il sole, urlare a voce bassa l'agonia, attraversare nel fango e nei detriti si condensa la paura sotto i riflessi della luna, la mia terra, confondere il buio con il sole, urlare a voce bassa l'agonia, attraversare nel fango e nei detriti si condensa la follia, l'azzurro si misura con la mente pura. A me non dispiace questo brano. All'inizio magari devo tagliarlo un po' all'inizio, sì, che ti ha un po'. Ti ha un po' smorzato. Sì, si faceva anche attendere. Lo stile, Sì, no. Sì, è uno stile un po' così. Ma noi siamo abituati verso quest'ora a fare un po' più di cacciare, un po' di casino. Ma datemi il tempo là. Che arriva, no? Arriva. Con gli Apason te lo do. E devo rilanciare la battuta che abbiamo fatto all'inizio puntata, quindi io ti rispondo con un sì. Perché se ti rispondessi con un sol andremmo indietro. Se ma lui dovrebbe sì. Risponderti fa. Eh sì, poi bio. E poi faccio no. Vabbè, dicevamo che eravamo arrivati un po' a un punto di non ritorno. Allora, io volevo dire una cosa, ecco. Questa settimana vagando su YouTube ho incontrato due personaggi che da quanto ho capito questi due ragazzi, no? Adesso non vorrei proprio far pubblicità, però ragazzi guardatevi anche voi su YouTube, fa morire da ridere, sono Jack e lo Smilzo. Io penso che stiano riscrivendo veramente la Bibbia delle donne e dei rapporti con le donne. Ho visto una puntata della Friend Zone e tutti sappiamo cos'è la Friend Zone. Io no. Eccolo qua che casca l'asino. Adesso ti spieghiamo che cos'è la Friend Zone. Allora, è in quella fase dove tu ti piace una ragazza, sì, e la ragazza ti considera amico. Tu continui ad andargli dietro, lei è amico, alla fine l'amicizia non paga. Questa è la Friend Zone. Tutto sto casino per dire sta cagata qua. Ma perché è americano. La regola dell'amico, punto e basta. Aveva già detto Max Pezzali. Già Max Pezzali. E loro fanno veramente una puntata bellissima, sì, no? Dove raccontano anche piccoli aneddoti, che è vera, è pura verità. Cioè tu quando sei dentro questa zona di Friend Zone, no? Ti fai di quelle immaginazioni, mettiamola così, no? Dove magari vedi certi segnali che sono niente e tu dici no, ma mi sta guardando. No, quindi bisogna mettere questa... la regola dell'amico. Ma poi la friend zone potrebbe essere quella che poi dice sempre Max Pezzali, che quando tu dai baci alla tua amica, cioè è quella distanza che sta tra la guancia e l'inizio del labbro, perché sai, se vai troppo vicino può sembrare che può scattare un bacio. Invece, è vero. E poi soprattutto sulla mia esperienza, non essere mai troppo simpatici, perché sicuramente non trombate più. Vabbè, io direi che poi dopo, se in realtà la regola dell'amico non va bene, uno si può anche vendicare facendo un bel voodoo. Questa vecchia scuola radiofonica. Questo è un po' da vecchio. Sto utilizzando delle vecchie tecniche da, da radio. Perché il prossimo brano, Fabio, è il brano dei Voodoo Voodoo Tapes con il pezzo Voodoo. Quindi era per quello che dicevo. Preferiti, perché lo stai mettendo tre volte. Tra l'altro loro ce l'avremo come ospiti da intervistare. E chiederemo anche loro se hanno delle friend zone. Ma io dopo ma tutti hanno una friend zone. Assolutamente. Io ho un cellulare pieno di friend zone. Ecco. Donne, riempite la memoria. Un po' non credo, però vabbè. Fabio. Cielo. Dopo il brano, pensa ad altri canali YouTube che stanno un po', che ti piacciono come io. Ne ho almeno due o tre. E io ho capito quali sono i suoi, però lasciamo stare. No, YouTube. Io di qua, io di là. Vabbè, manca andiamo a testa la gol di quell'altro, Andiamo a ascoltare Voodoo Tapes. Are you ready? This is voodoo. I got the poison, I got the remedy for you. We talk with the spirits, yes, that's true. Black magic music, this is how we do. People, are you ready? This is voodoo. I got the poison, I got the remedy for you. We talk with the spirits, yes, that's true. Black magic music, this is how we do. Giro lentamente col cucchiaio e il calderone. Nero mentre bolle la pozione sul carbone. ne magia nera del delay. Papa bonga lo stregone, sono io la soluzione oppure la fine peggiore. Tra bamboline di TV, tra eco space e cavi di bambù, tra bassline, poi funghi blu, la giusta dose se no fa boom. Noi suoniamo per gli spiriti laggiù che fanno paura, come quando incontri l'uomo nero e ti fa boom. Tipo, are you ready? This is food. I got the poison, I got the remedy for you. We talk with the spirits, yes, that's true. Black magic music, this is how we do. People, are you ready? This is food. I got the poison, I got the remedy for you. We talk with the spirits, yes, that's true. Black magic music, this is how we do. Cambia aspetto a mezzanotte come l'uomo lupo. Muovo i tuoi passi come nel teatro un pupo. Il nostro possesso è inutile che chiedi aiuto. E con un po' di spaghe e ago ti rendiamo muto. Voodoo tape is too late per un tuo rifiuto. Verso nel big break, quello scuro e sconosciuto. Ingabbiato come un detenuto. Ma poi finisce la pozione, il rito è compiuto. Prendo vita dalle ceneri, riemerso dal fango. Sotto varie forme e generi, petali e fiori del mare per l'alto rango. Rievo col mambo jumbo. Sono io il diretto discendente del potente Papa Shango. Sogno che vengo a prenderti, come disse Rambo. Mi trovi alle figlio a Parigi per l'ultimo tango. Sono io il peccato, sono ritornato come Sauron con Saruman addomesticato a mo' di Orango. People, are you ready? This is food. I got the poison, I got the remedy for you. We talk with the spirits, yes, that's true. Black magic music, this is how we do. People, are you ready? This is food. I got the poison, I got the remedy for you. With the spirits, yes, that's true. Black magic music, this is how we do. Sono sapi delle misture, fate apposta per le fatture. Ti ritrovi con scottature, stigmatizzo le tue paure. L'altro mondo più profondo delle fognature. Mi circondo di streghe, nonché di macabre creature. Prendo bene le mie misure, per gli infusi sostanze impure. Occhi chiusi e poche premure, rappresento le forze oscure. A Sleepy Hollow come mele mature. Taglio via teste dal collo con in mano la scure. People, are you ready? This is food. I got the food. I got the poison. I got the remedy for you. We talk with the spirits, yes, that's true. Black magic music. Stiamo sempre ascoltando questo brano della A Quiet Bump. Stiamo facendo lezioni di strano amore. Stiamo tornando nella friend zone. Stiamo facendo le varie fasi, no? Quindi la fase finale era quella del voodoo. Perché se proprio non riesci a fare niente, cioè, detto ti anche affidi a quello. 5 contro 1. Ma adesso pensandoci bene, adesso questo pezzo dopo averlo ascoltato 3-4 volte è un pezzo dei Prodigy, Poison. Poi non so se l'hanno campionato anche loro. Sì, qualcosina, è vero, è vero. Però tenetela per quando li intervistiamo, sì, così almeno se non mi dicono parolacce. No, intanto ci saluta Michele che abbiamo ascoltato. Ciao, prima Michele. E effettivamente potremmo chiamarlo Miki, che già non è invitato. Miki, chiediamo a Miki se la friend zone anche lui ha avuto esperienze. Ma magari glielo chiediamo quando viene qua. No, lascia stare, è impegnato. È impegnato. Vabbè, ah, però lo sapevo. Touché. Touché. Sì. Dalle stelle. Scusa, questo è bellissimo. Già entriamo in clima. Poi con la sigletta sotto, senti. Ecco. Yeah. Questa qua è la solita sigletta che c'è all'inizio del programma. Però vabbè, oggi l'abbiamo messa a questo punto qua del programma. Stavo dicendo, quindi altri youtuber che guardi? Fabio? Ma, allora, solo quello lì. Allora, questo è quello che mi ha colpito. Gli altri li guardo 2 secondi e poi cambio. Non è che ci sia. Ma io guardo. Fai anche zapping con YouTube, incredibile. Ma sì. Ascolto la musica, poi ogni tanto ascolto la musica sul televisore. Che. Bello, ascoltare la musica sul televisore. No? C'è l'impianto, mica suona meglio che la radio. Okay. E alla fine della fiera giri, ti becchi il video. Sono interessante. Vecchio, sono vecchio. Fabio. Ma poi la cosa bella di questi due ragazzi che molte puntate le fanno dentro il Carrefour. Sì. Rendetevi conto, sono due geni questi. Se lunga non ti dai benestare, eh? No, se lunga ti spara. Direi di no. Esce Caprotti direttamente col fucile. Infatti. Salutiamo qualcuno. Salutiamo Jack e lo Smilzo. Prima o poi vi intervisteremo. Si può fare. Prova a contattarli, scusami. Dal canale di YouTube. Avranno la gente ormai. Sì, in effetti, quelli di YouTube ormai sono tutti delle superstar. No, ma poi facevano anche una puntata interessante. La gente su internet che si fa seguire dai follower. E dicevano che sopra i 10.000 follower ormai tu non conosci. conti più, non conti niente, nel senso. Da spiegare è difficile, perché dice, fin quando sei una persona normale, cioè hai la tua vita, le tue azioni. Poi dopo, quando arrivi a 10.000 follower, ti monti la testa, sei proprio un'altra persona diversa. Anche perché ti danno anche proprio dei soldi, probabilmente. Dopo questo un certo non lo so, se mi dici sì, quanto, sì, comincio. Sì. No, ti do la conferma di questa cosa qui. No, assolutamente sì. Così, sì. Ah, potrebbe essere fonte di reddito. Instagram, allora, queste cose qua, sì. Certo. Sì. Allora, perché la gente influenza sono quello, alla fine. Influenza, oltre a prenderla... pensavo che avendo tanti follower, magari... non so, società, magari dicevo, se tu mi sponsorizzi involontariamente, sì, ti paghiamo. Ma non solo. Anche volontariamente. Ma non solo. Io adesso non so se l'avevo detto, che un locale della zona, diciamo, di Busto, per l'estate, un estivo, cercava personale giovane, ragazzini, ragazze. Cioè, con almeno 10.000 follower. E cercavano con un tot di numero di followers. E questo abbiamo fatto in maniera basita. Cioè, tu potevi lavorare stagionale, chiaro, come barista o cameriere, quello che vuoi, però sulla base di, mi sembra, dei Twitter o comunque dei follower. Però. Sì, ma è una cosa un po' scandalosa, più che altro perché, sai, se uno non è tanto avvezzo in internet, non venivano neanche pagati, chiaro. No, follower. Sì, beh, ti pagavano a follower. Va bene, andiamo, incrementiamo un po' il beat, visto dai, che dai, me l'avete richiesto. È venerdì, cacchio. Sì. Passiamo al brano, che è di Finger Flood. Il brano è Intruder ed è un brano techno del 2017 di un'etichetta italiana, Noisy Beat. Col quale ci stiamo un po' ammanegando. We'll be right back. ci stiamo un po' riprendendo col sì, beat. Sì, sì, sì. Ok, no, bene, bene. Anche perché siamo verso la fine della puntata. Quindi è scoppiettante. Sì, sì, sì. Abbiamo... Com'è che era la cosa di adesso? Adesso che ti... Ah, bravissimo, bravissimo. Ace Ventura. Ecco, Ace Ventura. No, The Mask forse. Forse The Mask. Forse The Mask. Spumeggiante. Quindi sono rimasto molto deluso dalla vostra cultura musicale notturna. Vabbè, vabbè, niente. Si parlava di Principe Maurice, che mi sembra quello del boss delle torte. Ma comunque te lo dico. Qualcuno diceva Madagascar. Anche, sbagliava. Anche. Beh, ci può essere un Principe Maurice nel mondo, eh? Ah, è vero, il Principe Maurice di Madagascar. Ma non è il principe, è quello sì, che aiuta il lemure. Il lemure. Ma non è il principe, è il consigliere. Vabbè. Royal. Magari qualche volta ne parleremo del Principe Maurice. Sì, sì, sì, dobbiamo trovare il momento, magari lo chiamiamo. È difficile, sarà dura, sarà dura. Quello avrà come minimo 6 manager prima, no, di sapere. Non credo, sai, perché non credo, no, non penso. Cosa? Che sia così, ma proviamo, magari. Chi lo sa, lasciamo il dubbio. Lasciamo il dubbio, dai. Va bene, va bene. Volevo presentarvi un'altra etichetta, ormai penso che chiuderemo con questa. Si chiama, okay, Tecnique, ed è un'etichetta anch'essa di Milano, quindi ho trovato un bel po' di roba italiana oggi. Ah. E produce la sede via? Non lo so, sarà via. No, perché ti spiego, perché Milano la via... c'è un punto dove ci sono un sacco di etichette. O c'era via Mecenate. No, non penso. No, non c'è più, cioè via Mecenate era la via dove c'erano tutti le grandi etichette di scuola. Ho capito, capito. E anche loro producono elettronica, diciamo techno, ma anche roba più commercialotta. Infatti, secondo me storcerai un po' il naso ai brani che metto adesso, però vabbè. No, va bene, sei stato abbastanza anche serio questa sera. Sì, sì, infatti facciamo un po' di delirio. Un po' sobrio, ragazzi. Un po' troppo, ma è stata una settimana seria, quindi era la giusta conclusione. Settimana seria. È stato un po' pesante per tutti, da quanto ho capito. Sì, sì, infatti, sì, siamo arrivati un po' scarichi stasera. No, no, vabbè. Ci stiamo, ci stiamo, non ti preoccupare. E perché manca il palo che dovevamo mettere con le lap dance. È vero, il palo della settimana. Io ho fatto una settimana a sognarmi la pole dance qua. Arrivo e trovo solo lui, cioè non ti rendi conto. E invece hai trovato la ton dance invece. La ton dance. E mi sa che torna a casa e torna su YouTube. Vabbè. Va bene. Sul canale. Comunque vi dicevo della Technique. Andiamo a ascoltare uno dei primi brani che ho selezionato del 2014. Lui è Donkey Star con RN Crime. Donkey Star. Non so chi sia, non so da dove viene, però magari il brano, intervisteremo in futuro. Franco spagnolo. Può essere. No, non lo so se è italiano. Non so se ci vuoi parlare tu in inglese. In milanese. O in milanese, ecco. We'll be right back. Vabbè, dai, venerdì. È un pezzo giusto da venerdì questo. Non so, non ti dà, non ti sprona un po', no? Ancora. Guarda, sono già fuori al bar con gli amici. No, vabbè, ma la settimana è stata così pesante, Fabio. Più che altro gli ultimi giorni sono abbastanza tragici. Poi con la fiera dell'Ekman. Eichmann, sì, scusate. Che è la fiera, vabbè, ricordiamo, delle moto. Delle moto che c'è a Rofiera, sì, c'è tanta gente e noi pendolari ne stiamo un po' soffrendo sul viaggio. Noi siamo pendolari, sì, sì. Speriamo sempre che le modelle dell'Eichmann salgano sul treno, ma ci sarà quel bastardo con la limousine che le porta a casa, o no? Mannaggia. Ma è meglio per loro, con la gente che gira in treno è meglio per loro, soprattutto visto che sì. Ci sei anche te in treno. Ma io dormo, lo sai. Sì, è vero. Confermo e sottoscrivo questa cosa. Lui lo stacchiotto del treno. Io sì, sono stacchiotto del treno. Lui, care donne, venite. Lui si siede, tre secondi mi dice scegliamo Garibaldi. Fa 45 minuti filati di treno. È una cosa impressionante. Guarda che il sedile del treno è più comodo del mio letto. Secondo me dovrebbero studiarti per capire qual è. Cioè, nel senso, dovrebbero estrarre magari una medicina, sai, per chi non riesce a prendere sonno. Tipo sonno istantaneo. Da Fabio. Io ieri sera ho visto l'aereo più pazzo del mondo quando c'è bellissimo. Il tipo racconta le sue storie che c'è, ecco, ci vorrebbe uno così. la vecchia vedi, che si tu hai sempre suicidato. Fatto sesso con l'unica donna per 50 anni, io invece ogni sera con donne giovani insaziabili e l'altro con la mamma. Non l'ho visto io sto film. Guardalo, è un pezzo di storia. No, non mi so. Ma sai, io tanti film. Ma io devo dirti la verità, io tanti film, anche tipo. Non era forse la Palottola Spuntata? Ecco. C'è l'attore di una Palottola. Bravo, Spuntata. Bravo. Io tutti i film dove c'è quell'attore lì ho sempre avuto una repulsione a guardare. Leslie Nielsen. No, dai. Hai avuto un'infanzia di film. No. Piuttosto triste. Non mi sono mai. Non so. Sì, per questo è un direttore di lavori lui. Deve capire. Vabbè, anche tu lavori in banca. Anche tu lavori in banca. Non si dice. Lui ha una doppia vita. Diciamo, quando di giorno lavori in banca e di notte fai la, la svaligia. Ma io faccio le pulizie. Okay. Lavoro in banca. Va bene. Continuiamo sempre con un brano della Technic. Quindi ci portiamo sempre avanti sul genere Tamaria. Che ci sta bene, che poi la serata così almeno ci riprendiamo anche un po'. Sì, il venerdì è anche una serata particolare, alternativa, no? Giusto, al sabato c'è i ragazzi. Poi alternativa, poi diciamo puoi ascoltare anche della musica un po' sofisticata, quello che è. E poi arriva questo brano di Soul Puncher. È mio parente per il Puncher. Con Bass Gloss, e poi mi dirai, Tony. Va bene. Bene, bene, a Fabio è piaciuto, quindi. Gasava, gasava. A me piaceva. Allora, la masterizzazione del brano è spettacolare, nel senso i suoni si sentono spettacolarmente, sparano a mille. I suoni sono belli. I suoni sono belli. Il giro di basso bellino. Il giro di basso iniziale mi piaceva tanto. Diciamo che il genere, sì, forse a Tony non gradisce molto, perché no, è un genere più commercialotto. Mancava. C'è stato il pezzo che ha fatto tipo uno stop, un piccolo rallentamento, però mancherebbe un piccolo crescente che la fa esplodere. Sì, sì, sì, non è male, ma non è male. Io diciamo che questo pezzo lo userei appunto come intro e outro e basta. Cioè, ma siamo verso manca, la fine. Manca qualcosa. No, no, nel senso tecnicamente per i DJ, cioè, lo faccio entrare come disco, ma poi non, secondo me non c'è una partenza. Sì. Ok, ok. Comunque siamo arrivati ormai verso la fine. Forse riusciamo a mettere ancora un paio di brani. Dai, ci proviamo. Dai. Chiudiamo con la Technic, con l'ultimo brano. Lui è Romualdo. Non c'è scritto lì. Il brano è On Plus N. Scritto O più N. On plus N. N come... Senti, è scritto così, Tony. Non facciamo i sofisticati. O più N. O più N. Come lo leggi? O. Ah, O. No. Plus. O plus N. O plus. Plus N. Plus N. Oplusn. Bravissimo. Te l'ho detto, Romualdo ha detto Oplusn. Salutiamo Romualdo. Ciao Romualdo. Non ho trovato notizie, perché se cerco Romualdo su internet, sì, diciamo che esce di tutto, ma produttore. Un po' di gente, dai. Allora, salutiamo Marta, Federica, Gioia, Caterina, Melchiorre, che è vicino a Gioia. Poi Manuela, Marta ancora. Tiziana. Non è su YouTube? No, è il numero di Radio Lupo. No, ma davvero, io davvero adesso non sto scherzando. Adesso andiamo a ascoltarci il pezzo. Però veramente volevo dire, vedi, mamma Romualdo mia. Di Camaldoli. Cioè, esce di tutto con Romualdo. Non sono riuscito comunque a trovare il DJ. Magari dopo, riuscendolo a taggare, se qualcuno lo tagga dopo, magari riusciremo a capire chi è. Va bene, andiamo a ascoltarci questo brano che, boh, non so neanche come si pronunci. Ah, salutiamo anche Martina, ci mancava nella lista. Mi raccomando, insieme a Gioia mi ricordo anche Benchior. Va bene, ciao. Thank you. sì, qua siamo veramente sul tamarro stasera. Un gin lemon, grazie. Da zarro proprio. Gin lemon, il gin tonic no? Il gin tonic no. Dai, dai. Comunque tu Fabio avevi dei saluti? Ah sì. O ma ce li teniamo per dopo, per la parte per finale? La fine. Sì, vabbè, salutiamo dai. Solo Lizzy Starling. Sì, Lizzy Starling. Anche Pentatonic. Anche Pentatonic, se mi hai sentiti prima. Ciao Pentatonic, tutti e cinque. Siamo al top of the pop. I Pentatonics. I Pentatoni. No, poi dopo ci teniamo i migliori alla fine. Mi sembra cosa buona e giusta per tenerceli buoni alla fine. No, in realtà dopo volevo fare i saluti un po' più seri. Quindi se vuoi fare quelli scamuffi, falli adesso. Il momento è buono. Ti sto ancora recuperando, ragazzi. Mamma mia, quanti contatti ha sto ragazzo? Guarda che qua si lavora. Cioè, contatti per dire, perché di contatto, mi sa che qua è da un po', eh? Vabbè. Salutiamo Mimmo sulla 4 che ci sta ascoltando. Suona clax a tempo di Wolf Trips. È in tangenziale o proprio sulla è sulla 4. Sulla 4. C'è anche Rocco la freccia del sud. Sì. Anche lui sempre sul camion. Siamo molto seguiti dagli artisti. Ma lui è quello è l'automobilista. Sì, sul CB ci sta sul ascoltando. Sul CB. Vabbè. Immagino voi due sul treno alla mattina. E più o meno è così. Io dormo. No, quando però è sveglio, diciamo che il livello è quello. Quelle poche volte che sveglio il livello è quello. Che bel fischiettino sotto. Sì, è sempre la solita base. Sta dicendo una cazzata. È vero. Non fa tutto fa ciao. Andiamo ad ascoltarci l'ultimo brano della serata. Siamo arrivati dulcis in fundo. Il brano è di Bobby Marleni, che tra l'altro salutiamo perché anche lui è un altro Bobby che Marleni. Ci ascolta ciao, spesso Bobby. Ciao Bobby. Ciao Roberto, credo. Sì, com'è che si chiama? Roberto, Bobby. Bobby, no, tanto lui non è italiano, quindi. Ah, bello. Hello. Ai Bobby Marleni. Hai fatto male. Ma questo non ci ricorderà più neanche. ha già cancellato. Ha capito anche se non è italiano. Mi stanno prendendo per il culo. No, non è vero. Anche perché la musica che fa è molto bella. E il brano si chiama Satisfy 2017 sull'etichetta Monophonicos. E lui, tra l'altro, produce anche con un altro, diciamo, nickname che è Mala. Però vabbè. Aia. Ecco, quell'altro scherziamo di meno. Bobby Mala. Bobby promette male. We'll be right back. Bene, bene. Allora stiamo facendo una lista dei, delle amiche di Fabio da di Wolf Trips. Di Wolf Trips. Dobbiamo salutare. Già ce li concede, dai. Vedi, io sono una persona molto. Salutiamo Dorotea. Dorotea, ciao, da Bari. Ma aspetta, ma non è da Baltea? Da Baltea, bravo. Isotta. E Tristano anche. Da Tristano, direi. Bravo. Freschina, che... Poi abbiamo Alma. Viva. Alma viva. Spogliamo. Cioè, clicca qui. Salutiamo, clicca qui. Ma il click è il nome o il cognome? È il nome, dai. Questa mi sa un po' più di prostituta. È un mouse in realtà. No, penso di aver fatto tutti i saluti. Mirta, non hai salutato Mirta. Ah, è vero, Mirta dalla Sardegna. Mirta Piras. Mirta Piras. Penso di aver salutato quasi tutte le... Va bene, invece i saluti in realtà, quelli seri li facciamo io e Tony, va. Dopo la sigla. Bravissimo, è vero. Viaggi del lupo. Bene. Lo sai che mi fa sempre pena che hai fatto una bellissima sigla, noi chiudiamo sempre con delle cavolate. Vabbè, la sigla è quella, poi sì, quello, sì. Cosa ci mette uno sopra non è... è vero, chi lo poteva sapere. È vero. Sì. Siamo arrivati alla fine, sì, quindi sì. Dobbiamo tirare la quadra, come dico io, no? Ok. Allora, salutiamo quelli che ci hanno visto da Facebook. Sì, che sono scappati. E che ci hanno sentito invece... o dall'applicazione o dal sito della, sì, radio. Sì, salutiamo la Cri che è a casa. Ciao Cri. Ciao Cri. Adesso la torna, raggiungerò. Torna presto in radio. Sì, settimana prossima è di già nuovo qua. Non ti preoccupare. Salutiamo Sabrina. Poi Sabrina sicuramente. Fabio, che... non so se ci ascoltano. Ma credo. Fabio non saluti. Io sono qua. No, l'altro Fabio, ma, Fabio. Non, ma non salutiamo. Ma non salutiamo. Chi se ne frega. Ma chi se ne frega. La Debora non so se ci ascolta. Ma sì. Chi ma... se ne frega. Ma chi se ne dopo. Frega. Poi... poi chi è che dobbiamo salutare? Qua abbiamo Katia, sì. Sara ce l'abbiamo a Genova, non credo che ci stia ascoltando. Sarà a Genova? Ci sta ascoltando, ci sta ascoltando. Genova? Daniele ci sarà ancora ascoltando? Ci sta ascoltando, ci sta ascoltando. E poi niente, poi se... allora, volevo salutare qualcuno di quelli che ci hanno messo dei nuovi, sono dei nuovi amici, tra virgolette, di Facebook. Italiani e stranieri o sono stranieri? Perché qua... sono stranieri. Sono no, stranieri, è vero, no. Non è vero. Ce ne sono tanti. Ciao Michele, italiani. Ciao Michele. Michele che abbiamo avuto come, ciao, Michele, come ospite, dopo ripubblicheremo sicuramente il podcast con dentro anche la sua intervista. E niente, boh, basta, io direi. E che devi salutare la nuova. Ma sono tanti. Che bello. Voglia. Ricordiamo che saremo su Spotify, o saremo già anche su Spotify. Sì. Poi su Fortune. Salutiamo Spotify. Spotify. Siamo su Fortune FM. Sì. Salutiamo la nuova Fortune FM. Sì. Ah, io voglio salutare questa qua. Come si dice? Quella ti voglio, no, in realtà, voglio. No, in realtà devo salutare Ramon Rodriguez. È vero, Lioia, sì, sì. Che ci segue molto sui lui social. Di dov'è? Non lo so, adesso dopo approfondirò. Ciao, la Ramon. Questione. Credo però... che sia spagnolo, mi sembra. Beh, dal nome. Ramon, poi sì. Vabbè, non so, altri, no, se no, tu mi leggi questo nome qua, guarda. Alla calma, la calma, la. Okay. No, quello sotto della ragazza che è carina. Camel camel. Camel camel. Va bene, li salutiamo. Adesso non so come si dice ciao in arabo. Comunque, fa piacere. Va bene. Salam alaikum. Eh sì, vero, ce l'avete in casa. Pago Telecom, ha detto, l'ho sentito anch'io. Io in realtà ho sentito che gioco con i Lego, però... Io so Namaste. No, non che c'entra c'è. Niente. Ale. 22.07, ormai siamo veramente fuori. Siamo veramente fuori, tra un po' penso che arriverà il direttore della radio e ci caccia. Possiamo perché... salutare in francese. Salut. Salut. Salut. A tutti quanti. Va bene, va bene. Ci sentiamo settimana prossima. Che 16. Vada... guarda lì con la Bibbia subito. 16 novembre. La Bibbia. Sembra l'arbitro quando ti deve dare la munizione, no? Col taccuino. Allora, settimana prossima avremo come intervista 51 bits. Quindi... ah. Ma come il modem? Cos'era? No, quella 56k. 56k quello. Potremmo fare un gruppo che si chiama 56k. Non è male, carino. Magari ci già, ci sta. Io mi chiamerei in realtà DSL. Ah, DSL. No, DSL. Che che quella prima della DSL, perché poi uno gli è caduto il pezzo in mano e fa: ah, allora, ADSL. Strano che la arriva prima della DSL.